Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, buona giornata da Deborah Rosciani e benvenuti a Salva Danaio. Salva Danaio oggi torna sulle operazioni finanziarie straordinarie, sulle vicende di alcune società quotate in borsa, sulle quali spesso i piccoli azionisti non hanno informazioni sufficienti, adeguate, o perché non si fanno investimenti consapevoli, questo accade, lo sapete bene, o perché si è ricevuta la consulenza sbagliata, o perché a volte sono temi complicati per loro natura, quindi non si capiscono proprio per questo motivo e allora così li si mantiene un po' alla distanza. Quali sono allora i temi di oggi? Dopo aver analizzato lo spin-off complicatissimo di Fiat settimana scorsa, ci sono altre operazioni che stanno continuando ad animare le sedute di Piazza Affari. Ieri è partito l'aumento di capitale del Banco Popolare, un'operazione con la quale il gruppo mira a rastrellare 2 miliardi di euro e oggi, partendo da questo presupposto, vi spiegheremo cos'è un aumento di capitale, come fa un piccolo azionista a capire se vale la pena aderire o meno alla proposta di sottoscrivere nuove azioni. Ma c'è anche un'altra storia interessante che forse di recente non ha guadagnato spesso la ribalta della cronaca finanziaria perché riguarda una società più piccola, ma comunque ha tirato in ballo molti piccoli azionisti che adesso, avvalendosi di una serie di novità normative, vogliono alzare la voce e far valere la loro presenza nella cosiddetta governance societaria. La vicenda di cui parliamo riguarda la società Cape Live, società di investimenti quotata in borsa da luglio del 2007, è una costola di Cape, che è un gruppo di private equity. Questa società sta vivendo giornate di borsa letteralmente sull'otto volante. Nell'ultimo mese ha guadagnato qualcosa come il 120%, solo da inizio anno l'80%, anche se dal suo collocamento risulta ancora in perdita di circa il 60% del suo valore. Cosa sta succedendo? Che ci sono c'è uno scontro in atto fra i soci in vista della prossima assemblea, che è convocata per l'11 febbraio. In quell'occasione gli azionisti saranno chiamati a nominare un nuovo consiglio di amministrazione e a deliberare un aumento di capitale, anche in questo caso un aumento di capitale necessario al rilancio del gruppo. Vale 10 milioni di euro questo aumento di capitale, quindi ben poca cosa rispetto a quello del Banco Popolare, però è interessante analizzare il ruolo che stanno rivendicando in questa battaglia i piccoli azionisti. Quindi tanti temi interessanti che speriamo vi coinvolgano come sempre, quindi se volete saperne qualcosa di più chiamateci all'800240024 oppure scriveteci al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, che sono gli interlocutori di Salva Danaio di questa mattina. Intanto un ritorno molto gradito, quello di Luigi Tramontana, analista finanziario di Banca Akros. Buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti. Un bentornato perché Luigi è un ex collega peraltro del Sole 24 Ore, che adesso appunto si è spostato in banca e è un analista finanziario per l'ufficio studi del Sole 24 Ore e adesso appunto è per questa banca. Poi anche in questo caso un altro ritorno, quello di Antonio Tognoli, vicepresidente di Integra Sim. Tognoli, buongiorno e bentornato anche lei. Buongiorno, grazie. E buon anno. E buon anno anche e benvenuto invece al professor Gianfranco Datri, professore di informatica generale alla Facoltà di Economia all'Università della Calabria. Professor Datri da una decina d'anni si occupa dell'equilibrio degli interessi degli stakeholder nelle società quotate, guida proprio questi piccoli azionisti di Cape Live, molto battaglieri appunto, che stanno serrando le fila per l'assemblea dell'11 febbraio. Professor Datri, buongiorno. Buongiorno e anch'io buon anno. Grazie molte di essere con noi. Peraltro, casualmente, ne ha qualcuna da dire anche a proposito del Banco Popolare, perché nella ricostruzione della vicenda Cape Live, che ripeto è un po' complicata e soprattutto data la dimensione più piccola rispetto all'altra di cui stiamo parlando della società, ha fatto molti parallelismi anche con il Banco Popolare e la gestione della vicenda Italease, sulla quale poi magari torneremo. Prima di approfondire il tema di oggi, come sapete, diamo un'occhiata anche all'andamento della borsa in questa giornata oggi piuttosto spumeggiante, perché il mercato è felice di quello che ha visto dalla Germania, l'indice ZEWE, la fiducia degli investitori, che è risultato nettamente superiore alle attese nell'ultima rilevazione, quindi uno sprint per Parigi più 0,87%, per Francoforte più 1,01%, per Londra più 1,12%, Milano più 1,16%. A Milano oggi acquisti piuttosto consistenti sull'Ottomatica, che sta guadagnando il 4,82%, Intesa San Paolo più 3%, Ubibanca più 2,73%, Finmeccanica più 2,35%, che beneficia ancora della commessa ottenuta ieri in Messico, Unicredit più 2,29%, Buzzi più 2,23%, Luxottica più 2,19%, STM più 1,94%. Oggi una buona giornata complessivamente per la tecnologia, perché stamattina c'è stato un report positivo di Goldman Sachs sul settore che ha alzato anche il prezzo obiettivo per STM. I ribassi invece oggi riguardano la galassia Fiat, che frena, meno 1,74% per i titoli auto, Tenaris meno 1,22%, TOTS meno 0,7%, Exor, quindi l'azionista di riferimento della galassia del lingotto, meno 0,6%, Enel Green Power meno 0,38%, Fondiaria meno 0,37%. Abbiamo già dato indicazione nel giornale radio del buon esito delle aste greca e spagnola per quello che riguarda i titoli di Stato collocati questa mattina, per cui anche se i tassi da riconoscere sono ancora piuttosto alti, in realtà per la Spagna stamattina è riuscita a strappare rendimenti più bassi rispetto al previsto, collocando con successo titoli di Stato a 12-18 mesi per 5 miliardi e mezzo di euro, ed è la prima volta da ottobre, cioè dai tempi di salvataggio dell'Irlanda, che per i titoli di Madrid si registra un calo dei tassi, segno che quindi, come dire, anche le discussioni in seno all'Ecofin di queste ore stanno determinando un rasserenamento sul fronte appunto delle aste di obbligazioni governative. Direi che possiamo lasciare la borsa di oggi per andare subito al tema che vogliamo approfondire quest'oggi, partendo appunto dall'aumento di capitale del Banco Popolare, e poi parlare delle vicende anche di Cape Live, anche capire se ci sono all'ascolto piccoli azionisti di questa società. Sicuramente ce ne sono tanti delle Banco Popolare che stanno facendo delle valutazioni economiche in queste ore per capire se vale o meno la pena aderire a questo aumento di capitale. Antonio Tognoli, voglio cominciare subito con lei per capire intanto che cos'è un aumento di capitale, quando una società delibera un'operazione straordinaria di questo tipo. Beh, normalmente un aumento di capitale è appunto un aumento dei mezzi a disposizione dell'impresa per fare investimenti. L'impresa può aumentare i mezzi appunto a disposizione degli investimenti o tramite ricorso al debito o facendo ricorso, quindi a debito bancario, o facendo ricorso ai propri azionisti. La banca, parallelamente a un'impresa, può o fare ricorso ai propri azionisti oppure chiedere ad altre banche di dargli dei soldi. In questo caso fa ricorso agli azionisti e chiede 2 miliardi di euro. A cosa servono questi 2 miliardi di euro? A quanto dice Pier Francesco Saviotti, circa 1,5 miliardi per il rimborso dei tre bond. Che ricordiamo è il consigliere delegato della banca. Esattamente. Quindi 1,5 miliardi per il rimborso dei Tremonti Bond a suo tempo chiesti, e questo da solo consente il risparmio di circa 123 milioni di interessi passivi l'anno, perché Tremonti Bond, diciamo, venivano dati dietro corresponsione di un interesse sostanzialmente elevato, e altri 500 milioni che il banco mette come dire in cassa per futuri investimenti. Quindi, tenuto conto che la capitalizzazione della banca prima dell'aumento di capitale era grosso modo 2 miliardi e 100, significa un raddoppio della capitalizzazione, che appunto in questi giorni è passata da 2 a circa 4 miliardi di euro. Luigi Tramontana, allora l'aumento di capitale è partito ieri e, come spiegava appunto Antognoli, servirà per gli obiettivi che ci ha indicato, e l'offerta prevede l'emissione di nuove azioni al prezzo di 1,77 euro. In base a quale criterio una banca stabilisce con quale prezzo offrire le nuove azioni agli azionisti vecchi e nuovi, perché peraltro c'è anche l'opportunità per nuovi azionisti di entrare nell'operazione in corso, come già peraltro sta succedendo proprio per il Banco Popolare, poi magari parleremo anche di questo aspetto, perché rispetto alle valutazioni attuali il titolo oggi vale circa 2,38 euro, si dice che questa offerta è fatta piuttosto a sconto, la banca non ha la certezza di raccogliere adesioni? Quindi deve renderla allettante? La situazione della banca è abbastanza difficile, e direi che l'andamento del titolo nel corso dell'ultimo anno lo dimostra ampiamente. Pertanto la banca deve offrire uno sconto rispetto al prezzo di mercato per invogliare gli azionisti a sottoscrivere le nuove azioni. Quali sono i criteri? Sostanzialmente un criterio di mercato, quindi si fa, diciamo, un sondaggio fra gli investitori istituzionali per vedere a che prezzo sono disposti a sottoscrivere le nuove azioni e sulla base di questo le banche che assistono il Banco Popolare nell'operazione consigliano il livello di prezzo a cui emettere i nuovi titoli. Nel caso del Banco Popolare stiamo parlando di un'offerta di 7 nuove azioni ogni 5 possedute a un prezzo di 1,77, quindi un prezzo che è a sconto rispetto all'ultimo prezzo di mercato di venerdì scorso del 47%, quindi quasi in metà. E rispetto al prezzo senza il diritto che si trovano in mano gli azionisti al momento, uno sconto di quasi il 30%, il 27%, quindi uno sconto importante che però è in linea con quello che abbiamo visto in altre operazioni di aumento di capitale lanciate da altre banche europee nel corso degli ultimi mesi. Ah, tra l'altro poi l'aspetto del diritto è molto importante perché già come dire, conferisce all'azionista l'opportunità o meno di aderire all'aumento di capitale oppure di cedere questo diritto sul mercato. Naturalmente il mercato gli riconosce qualcosa. Allora 1,77 euro il prezzo delle nuove azioni, oggi 2,38 euro, un po' di più nella valutazione quella di venerdì, siamo ben lontani, e appunto Luigi ce lo raccontava proprio poco fa, dalla quotazione del titolo intorno a luglio 2007. Ho ritrovato insomma questa data tanto per ricordare i massimi su cui era salito quando ci fu la fusione fra la Popolare di Verona e Novara e la ex Popolare di Lodi, perché il Banco Popolare è frutto di questa grande aggregazione. Il titolo a quell'epoca quotava oltre 20 euro, e quindi è chiaro che oggi molti piccoli azionisti che magari ce l'hanno in carico proprio a quei prezzi magari l'hanno comprato in quel periodo auspicando chissà che tipo di crescita anche per la società sulla scia di questa aggregazione. Oggi invece si ritrovano non solo ad un titolo che è caduto parecchio in termini di quotazione, ma addirittura dover sborsare, decidere se sborsare anche altro denaro e quindi aderire a questa operazione. Da questi aspetti partiremo nella seconda parte della trasmissione. Chiedo ancora un minutino di pazienza al professor D'Atri per introdurre anche le vicende di Cap Live e poi le domande di Aldo da Latina e Angela dalla provincia di Monza e Brianza tra pochissimo. Eccoci ritornati in diretta. Sì, mi sono presa qualche secondo in più di pausa perché chiacchieravo così non vivacemente, anzi piacevolmente, con Luigi Tramontana in studio e non parlavamo delle cose del Banco Popolare, di altre cose interessanti. Però adesso per un attimo dal Banco Popolare, che ha anche in sospeso due domande di due ascoltatori, chiedo loro solo qualche istante di pazienza. Volevo spostarmi alle vicende di un'altra società di borsa che si chiama Cape Live, e su queste vicende chiedo l'aiuto, appunto perché sono delle vicende anche piuttosto complesse nonostante la dimensione più piccolina dell'azienda, al professor Gianfranco D'Atri, che vi ho già presentato prima, professore di informatica generale alla facoltà di economia all'Università della Calabria, ma soprattutto da qualche tempo si è fatto portavoce degli interessi dei piccoli azionisti di questa azienda. Professor D'Atri, allora, che cosa fa intanto Cape Live, e soprattutto perché se dovessimo fare un bilancio dell'andamento dei titoli di Piazza Affari dall'inizio dell'anno, appunto questa risulterebbe di sicuro la migliore, perché credo che abbia fatto qualcosa come più 80% e la sua corsa non si è fermata, anzi adesso vado a vedere che cosa fa, forse stamattina frenava un pochino. Ce ne racconta la storia? Beh, tutta la storia nasce dall'iniziativa del signor Cimino, l'attuale amministratore, e l'attività di Cap Live è una società che gestisce dei fondi di investimenti e alcune partecipazioni in altre società non quotate. Questo quindi, è un po' il lavoro del private equity, così tanto per farlo capire anche ai nostri ascoltatori. Sì. Grazie, e che quindi è stato posto all'interno di una società quotata con promesse di ovviamente nuove iniziative, e ha raccolto investimenti da parte di azionisti molto diffusa nell'area, principalmente nell'area di Bologna in questo caso, ma comunque si è presentata con tutte le regole in borsa a raccogliere il denaro del pubblico e quindi il risparmio delle persone. Quanto aveva quotato in borsa, che fetta di capitale? Partiva da un euro di quotazione, e quindi diciamo, ed era scesa a 12 centesimi poco prima di questa assemblea. In qualche maniera diciamo, le vicende di cui parliamo avranno anche in qualche maniera influenzato questo drastico drastico incremento di prezzo degli ultimi. Eh sì, perché è come se si fosse scatenata una lotta appunto per il controllo di questa società, quindi evidentemente anche le prospettive sono reputate interessanti, professor Datri, no? Probabilmente però non è questo, è che diciamo che lo start di questo recente aumento di quotazioni e combinazione l'iniziativa che abbiamo preso noi piccoli azionisti di sollecitare le deleghe per la presentazione di liste nel Consiglio di amministrazione. A questo punto anche altri soggetti, da una parte un gruppo diciamo che fa capo a Cimino e un altro che fa capo ad altri azionisti, hanno ritenuto di adottare la simile strategia. E devo pensare che qualcuno ha iniziato a comprare azioni per rafforzare la propria posizione, quindi il recente aumento di capitale è più legato proprio ad un'acquisizione per arrotondare il pacchetto di azioni. Non credo che risulti niente di nuovo dal punto di vista della valutazione della società. Ecco, quindi in sostanza ci si può chiedere come mai siete scesi in campo come piccoli azionisti. Peraltro questa è una società che è una vera public company, perché ha un azionariato estremamente diffuso, anche se ci sono, professor Datri, degli azionisti di peso, perché per esempio c'è questa figura di Atlantis che ha, se non ho capito male, circa il 28% del capitale. Non vuole l'aumento di capitale? Sì, che è entrata probabilmente a queste quotazioni più basse, ha ritenuto opportuno fare questo investimento, perché comunque non è una società che è fallita o fallimentare, cioè che si azzera il suo capitale. Sicuramente quelli che sono i piccoli azionisti, perché sono tendenzialmente alcuni di quelli che rappresento io come raccolta di deleghe, sono quelli che hanno investito non agli ultimi prezzi di pochi centesimi, ma ai prezzi originari, e quindi rispetto a quella loro iniziativa hanno subito una perdita. Quindi l'idea di intervenire, visto anche notizie di stampa che descrivono operazioni poco chiare, e quindi si sono mossi questi azionisti. Voglio precisare che forse il vero difetto di questa azienda, a volte condiviso anche da altri ovviamente sul mercato, ma nel caso specifico di questa azienda, è la scarsa informazione, cioè le operazioni che sono effettuate, benché descritte nei documenti secondo le formule previste dalla Consob, nella sostanza non si sa che cosa in realtà fa l'amministratore. Questo è un po' il difetto che dobbiamo riscontrare in generale nelle società quotate. E quindi, allora per andare al noccio della questione, poi magari valutiamo l'operato meno della Consob. Adesso peraltro per fortuna c'è un nuovo presidente che magari appunto cercherà di monitorare un po' più attentamente, siamo stati vacanti anche da questo punto di vista. Quindi voi come piccoli azionisti in sostanza quale obiettivo vi proponete? Perché avete approfittato di modifiche recenti che sono state introdotte al testo unico della finanza proprio per far valere di più il vostro peso. In che modo, professor Datri, e con che obiettivo? Allora, fondamentalmente la nuova normativa che deriva da una direttiva europea chiamata Stakeholder Rights introduce la possibilità degli azionisti, senza grandi formalismi, di poter, come abbiamo fatto in questo caso, proporsi come sollecitatori di deleghe da parte degli altri azionisti, e quindi permette di partecipare all'assemblea, anche se non fisicamente, ma quindi esprimendo il proprio voto in una maniera molto semplificata, e quindi essendo poi la prima occasione in cui si è concretizzata, perché il regolamento attuativo Consob è entrato in vigore il 7 gennaio, abbiamo messo in piedi un sito che si chiama capelive azionisti.org, rispetto al quale gli azionisti stanno inviando le loro adesioni e raccogliamo deleghe per poterci presentare con una quantità sufficiente a poter dare la nostra opinione. Quindi quante teoricamente ne potreste, come dire, rastrellare, adesso va di modo utilizzare questo termine? Non lo so, perché effettivamente è in fieri l'operazione e sicuramente non si arriverà alla maggioranza, questo è assolutamente impensabile, ma se poi questa quota che noi rappresentiamo potrà determinare, come speriamo, anche una scelta della lista di maggioranza o di minoranza, perché ci sono le elezioni del consiglio di amministrazione, speriamo di poter essere, diciamo, utili a un cambiamento di gestione della società. Va bene, insomma, quindi stamattina, qualora ci fosse qualche piccolo azionista di, tra l'altro lei lo cita all'italiano, Capelive, già anche per far capire appunto il sito internet. Perché, per me, perché no, ha fatto bene. fa parte di un abuso che è fatto anche dagli amministratori della società, e sono degli acronimi, acronimi, e quindi non c'è motivo di chiamarli all'inglese. Perfetto, esatto. Anche se poi tutto il nome esteso di CAPE è tutto in inglese, poi magari lo diciamo anche. Tra l'altro, questa società, sempre per rastrellare denaro, per portare avanti il suo obiettivo, ha emesso nel giugno del 2009 anche un'obbligazione convertibile in azioni, e la conversione di questi titoli sarà possibile a partire dalla prossima estate. Magari anche su questo punto, se riusciremo, professor Datri, faremo qualche istruzione per l'uso per gli ascoltatori, se ci fossero ancora, ribadisco, azionisti di questo gruppo all'ascolto e anche sottoscrittori di questo prestito obbligazionario, appunto, del giugno del 2009. Direi che però per un attimo dobbiamo tornare anche all'aumento di capitale del Banco Popolare, perché ci sono degli ascoltatori che ci chiedono, insomma, come funziona, come faccio a valutare la convenienza economica dell'adesione o meno. Allora comincerei un attimo con Angela dalla provincia di Monza e Brianza, perché ha un esempio semplice che ci consente, appunto, di renderlo così comprensibile per tutti. Angela, buongiorno. Buongiorno, sì, io posseggo attualmente 1800 azioni a un prezzo medio di carico di 8 euro. E appunto mi è stato proposto questo aumento di capitale, volevo sapere se per me potrebbe essere utile, magari per mediare il prezzo di carico, e quali sono le prospettive per il futuro. Allora, così magari divido un po' la domanda. Luigi, da che cosa vogliamo cominciare? Intanto, abbiamo già individuato le motivazioni per cui questo gruppo fa l'aumento di capitale, deve togliersi il debito con il ministro Tremonti, e chiaramente delle prospettive di crescita le avrà. Se un azionista volesse sottoscrivere l'aumento di capitale, perché dice, anche se ho un prezzo di carico molto alto, io credo in questa azienda e quindi credo nelle prospettive magari di lungo termine di un ritorno delle quotazioni a livelli interessanti, gli analisti cosa dicono? Allora, sospiro che precede la risposta non mi piace molto, però vabbè. Allora, diciamo, siamo a mercati aperti, ovviamente. Il quindi management ha indicato in passato, nel corso della presentazione dei suoi risultati trimestrali, che in una situazione normalizzata di mercato il gruppo dovrebbe essere in grado di realizzare degli utili netti nell'ordine dei 600-700 milioni di euro. Una cifra che in passato non si è mai vista per questo gruppo. Secondo, diciamo, la mia opinione personale, un risultato intorno ai 600 milioni di euro, se va bene, lo potremo vedere nel 2013. Ecco, però il fatto, per esempio, Luigi, delle due grandi fondazioni interessate ad entrare nel capitale del Banco Popolare, approfittando anche dell'aumento di capitale, non è un buon segnale anche che potrebbe, come dire, anche rasserenare un po' gli animi dei piccoli azionisti? Se ci sono investitori tanto importanti disposti a mettere tanto denaro in questa operazione, chiaramente la fanno a livelli molto convenienti, quindi è chiaro che è anche un loro interesse, però in prospettiva anche del dividendo non è un buon segnale? Allora, un conto il dividendo e un conto la rivalutazione del titolo. È vero che avendo delle fondazioni che vogliono entrare nel capitale del Banco Popolare, ci si può aspettare che venga distribuito con regolarità un dividendo nel corso dei prossimi anni. Dividendo che comunque non potrà essere il dividendo che abbiamo visto in passato, probabilmente il payout sugli utili che verranno realizzati di anno in anno sarà più basso, in quanto è cambiato il regime regolamentare sul settore bancario con l'introduzione dei cosiddetti accordi di Basilea 3, e quindi le banche tenderanno in futuro a distribuire meno utile ai propri azionisti, mantenendone di più all'interno per rafforzare i coefficienti patrimoniali. Il proprio patrimonio, esattamente. Quindi ci saranno dividendi, ci si può aspettare che sia così, ma penso che il rendimento del dividendo non sarà più quello che abbiamo conosciuto in passato, come primo elemento. Secondo elemento, il fatto che entrino delle fondazioni è una decisione sostanzialmente politica. Non dimentichiamo che il Banco Popolare è una società cooperativa, e pertanto, indipendentemente dal numero di azioni che ogni azionista ha in mano o va a sottoscrivere, il singolo azionista ha comunque un solo voto. Quindi, indipendentemente dalla quantità, dall'ammontare dell'investimento di queste fondazioni, le fondazioni saranno titolari di un solo voto, il voto a testa. Capitario. Pertanto, il fatto che entrino nel capitale con delle quote più consistenti è sostanzialmente un accordo politico che viene fatto tra il top management della banca e i rappresentanti di queste fondazioni, per dare eventualmente dei posti, delle le sedie e nei consigli che governano la banca sulla base di un accordo politico. Non potevi essere più cristallino. Io tra l'altro do del tuo a Luigi solo perché lo conosco da tanti anni, anche se gli ascoltatori penso che sono poco rispettosa della sua qualità ovviamente professionale, ma in amicizia. Però insomma abbiamo capito perfettamente il ragionamento. Poi chiedo, dopo i suggerimenti perché in viaggio, anche ad Antonio Tognoli se è d'accordo con tutto questo, e poi però facciamo anche un ragionamento di valutazione economica per Angela, che magari può andare bene anche per gli ascoltatori, per capire come fare a calcolare se effettivamente l'adesione a questo aumento di capitale può rappresentare anche un'occasione per mediare dei prezzi di carico che per molti azionisti sono piuttosto elevati. A tra pochissimo. 800 24 00 24, numero verde per gli interventi degli ascoltatori che volessero interpellarci questa mattina per l'aumento di capitale del Banco Popolare, per le vicende di Capelive, diciamola così, anche se mi viene proprio difficile pronunciarla all'italiano, ma insomma invece prendiamo anche questa buona abitudine. Antonio Tognoli, Integrasim, una riflessione sulle considerazioni dell'ascoltatrice. Angela, 1800 azioni, come fa? È chiaro che poi è una valutazione del tutto individuale, bisogna capire se può mantenere, come dire, anche stabilmente questo investimento a lungo con la prospettiva di una crescita delle quotazioni con un prezzo di carico di 8 euro. Secondo lei vale la pena ragionare un po' sulla adesione o meno all'aumento di capitali? Chiaramente le chiedo un giudizio personale. Beh, ovviamente intanto vale la pena fare i conti. Noi, sì, insomma, mentre si parlava ho fatto due conti. Bravissimo. 1800 azioni, se sottoscrive l'aumento di capitale deve sborsare ulteriori 4.460 euro. Il totale dell'investimento va, quindi considerate quelle che ha comprato, 8 euro più questo sborso, a 18.860 euro. Totale avrà 4.320 azioni ad un prezzo medio di carico di 4,36, se ho fatto bene i conti, perché è poco tempo. Quindi qui ovviamente è tutto soggettivo, se fare l'aumento di capitale o meno dipende da n considerazioni. Quello che sicuramente posso dire poi in termini di prospettive è che sono d'accordo con quello che si diceva prima riguardo la possibilità di avere o meno un dividendo un pochettino più basso, e in termini soprattutto di prospettive di utile della società. Ovviamente poi le banche si valutano anche sulla consistenza patrimoniale, quindi a questo punto ricordo che per esempio a dicembre il consiglio dell'amministratore delegato ha rifiutato un'offerta da BNP Paribas per 3 miliardi e mezzo per il credito bergamasco e le casse toscane. Quindi solo per alcune attività, credito bergamasco e casse toscane, c'era qualcuno che offriva 3 miliardi e mezzo, quindi poi c'è tutta l'attività del Banco Popolare proprio. E per poteva cui rimborsare almeno il doppio dei Tremonti Bond. Sì. Sì, il discorso è che il prezzo è stato ritenuto troppo basso, perché chiaramente se qualcuno sa che tu devi vendere e hai coefficienti patrimoniali bassi, ovviamente tiene basso il prezzo. Quindi se per solo un pezzo di attività è stato offerto 3 miliardi e mezzo, adesso tutto il banco ne vale 4, quindi la considerazione ovvia che mi sento di fare è sicuramente in termini patrimoniali la società vale di più rispetto a quello che quota in borsa. Ovviamente poi dall'aspetto patrimoniale arriviamo all'aspetto reddituale, dicendo sì, ok, l'aspetto patrimoniale è tot, ma a me quanto viene in tasca in termini di dividendi, di valutazione prezzo? E beh, qui c'è da dare un po' di tempo a Saviotti, oltre 2 anni che è già nella banca, per far sì che tutto ciò che c'è di buono della banca venga pienamente riflesso nei numeri. Però insomma ci spiegava peraltro stamattina, poco fa, anche Luigi Tramontana, che paga ancora tanti peccati il Banco Popolare, poi magari li ripercorriamo, e ancora si trascina dietro le vicende di Italease, che lo stesso hanno fatto infuriare tanti piccoli azionisti. Luigi, prima di ridarti la parola un attimo, vorrei anche sentire la domanda di Aldo da Latina, che ci dà modo di chiarire l'aspetto dei diritti di opzione appunto per l'aumento di capitale. Aldo, rapidamente, buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Senta, cortesemente, io ce n'ho 3.005 di azioni del Banco Popolare solo, e più c'ho anche il risanamento, che ieri è partito l'aumento di capitale per tutti e due. Tra l'altro, infatti, non l'abbiamo citato stamattina, ma di altre operazioni in corso ce ne sono, ha fatto bene Aldo. Adesso di quella non riusciamo stamattina ad approfondire i termini, però ci dica sul Banco Popolare. Praticamente per tutti e due, che io ieri dovevo avere i diritti sulla mia custodia titoli, certo, al momento delle negoziazioni. In definitiva, morale della favola, ho chiamato la banca, che è l'Unicredit, insomma, non è una banca all'ultima arrivata, è una delle più importanti europee, e non te sanno di niente dove stanno sti diritti. Praticamente all'inizio della negoziazione io vedevo che i diritti valivano un tot, cioè, facevano più 10, e poi hanno chiuso il pomeriggio, quando si sono ricordati le dame, i diritti a meno 50%. Allora io dico, queste minusvalenze, senza parlando quella del Banco Popolare, che era ancora maggiore la minusvalenza, allora io dico, ma a sto punto, questi soldi che io ci vado a rimetti per colpa del nastro, ma com'è la storia qua? Ma ci stanno dei presupposti per fare una denuncia a qualcheduno? Beh, certo, Aldo, se lei magari avesse già inoltrato il diritto di cessione dei diritti di opzione il mattino, quando valevano un certo prezzo e la banca non ha completato l'ordine di vendita, magari lì potrebbe esserci il presupposto, dipende lei che tipo di azioni ha fatto. Luigi Tramontana, peraltro, mentre l'aumento di capitale ha un prezzo prestabilito, per la vendita invece dei diritti di opzione c'è la quotazione per cui si balla. Sì, esatto, i diritti sono quotati, ieri è stato il primo giorno di quotazione e i diritti sono crollati, segno che molti hanno già preso la decisione di non sottoscrivere e hanno venduto immediatamente, quindi al momento il valore dei diritti è al di sotto del valore teorico basato su appunto il prezzo di emissione, l'ultimo prezzo a cui quotava venerdì il titolo, quindi chi vendesse adesso effettivamente si trova a incassare meno di quanto teoricamente dovrebbe valere il proprio diritto. Io però voglio ricordare una cosa: uno dei motivi per cui è stato questi diritti sono stati venduti massicciamente già ieri è che l'aumento di capitale è stato proposto non solo agli azionisti, ma anche ai detentori dell'obbligazione convertibile che è stata emessa meno di un anno fa dallo stesso Banco Popolare. C'è disperatamente denaro, non c'è niente da fare, insomma, anche questo è un altro segnale. Sicuramente. Ecco, quindi per chi è detentore dell'obbligazione convertibile, il discorso della cedola del rendimento è ancora più importante, nel senso che molto difficilmente il rendimento da dividendo potrà essere superiore alla cedola offerta dal prestito obbligazionario convertibile, quindi per quei soci lì probabilmente non è stato difficile prendere la decisione di vendere immediatamente. Allora, io tra un minuto devo chiudere la rubrica previdenziale, allora quest'ultimo minuto lo concedo al professor Datri. Chiaramente non avremo soddisfatto tutti i temi su cui teneva ad intrattenerci, appunto sulle vicende di Cap Live, chiamiamola così, o Cape Live se piace di più l'inglese. Professor Datri, se vuole le concedo appunto gli ultimi 30 secondi. Adesso non riesce inserirmi sul discorso del Banco Popolare, perché rappresenta l'esempio invece di una banca popolare, così come di altre strutture, diciamo, a carattere cooperativo, rispetto alle quali la legge sui diritti degli azionisti, il legislatore italiano ha ritenuto di non farla applicare. E quindi, diciamo, è evidente che si ritiene che la gestione di questi enti bancari, che dovrebbero essere società quotate, quindi nelle mani anche degli azionisti, debbano avere una gestione, come è stato già detto dall'altra persona presente in la riunione di stamattina, politica. Allora anche la decisione se investire comprando azioni politiche, e allora è chiaro che conviene investire sul Banco Popolare, però poi bisogna avere la forza di acquisire un ruolo, ma che non è certo quello che utilizzo io esercitando i diritti degli azionisti, è un altro tipo di ruolo. Infatti, e questo insomma anche per invitare tutti gli ascoltatori di Salvadanaio, ma anche delle altre trasmissioni, ad essere molto attenti quando ci si avventura in borsa, perché poi le implicazioni dell'investimento sono davvero molteplici, come abbiamo avuto modo di capire questa mattina. Insomma, non è solamente quindi un puro calcolo di convenienza economica che magari va fatto anche per la sottoscrizione dell'aumento di capitale. Adesso abbiamo la nostra rubrica previdenziale. INPS, per saperne di più. Per saperne di più, l'INPS ci spiega le parole della previdenza, e a partire da oggi vi spieghiamo come funziona il processo di digitalizzazione dei servizi avviato dall'istituto ad inizio anno. A partire dal 1 gennaio 2011 è previsto che alcune domande di prestazione servizio siano presentate all'INPS in via esclusiva attraverso il canale telematico collegandosi al sito www.inps.it. Il processo di digitalizzazione coinvolgerà nel corso dell'anno 2011, con la dovuta gradualità, tutte le tipologie di domande da presentare all'INPS. I primi tre servizi operativi sono la presentazione delle domande di indennità di mobilità ordinaria, di disoccupazione ordinaria e l'accentramento della posizione contributiva delle aziende. Io ringrazio Luigi Tramontana, Antonio Tognoli e Gianfranco Datri per essere stati con noi, Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Pietro Lacorte che dopo 3 o 4 anni di latitanza si è degnato di ritornare a fare l'assistenza tecnica a Salvadanaio. Noi ritorniamo domani, buona giornata a tutti.